Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, così come i temi ieri, erano prettamente di carattere italiano, ahimè, e a cavallo tra politica, tra cronaca giudiziaria e politica economica e anche economia. Mi riferisco chiaramente alla cupola, da quella che sono le accuse dei PM emersa a Venezia sulla costruzione del MOSE. Oggi i temi sono prevalentemente, come già sapete dai nostri GR24, prevalentemente di carattere europeo. Perché? Perché, come atteso, anche se su un aspetto di queste misure non c'era consenso, ma dicevo, come atteso da molti, la Banca Centrale Europea ha ridotto ulteriormente i tassi di interesse, non questa volta di un quarto di punto, ma dallo 0,25 allo 0,15%. È un nuovo minimo storico, nel senso che già lo 0,25% era un minimo storico. Però la cosa più importante, e vedremo poi di capire nella seconda ora perché, è il fatto che la Banca Centrale Europea abbia portato a negativi, cioè uno ci va a perdere, i tassi sui depositi, gli overnight cosiddetti, cioè i depositi, chi vuole depositare i soldi, sono le banche europee dell'area euro che vogliono depositare i soldi la sera, si chiama tasso overnight per questo motivo, per riprenderli la mattina, non potranno più contare su un rendimento, per quanto minimo, seppur nominalmente positivo. Adesso ci perderanno meno 0,1%. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che uno potrà continuare a farlo, ma ha minori incentivi, minori vantaggi nel farlo. L'obiettivo di fondo è chiaro: stimolare, o meglio costringere, se vogliamo usare un termine più forte, le banche europee a depositare sempre meno soldi di notte alla Banca Centrale Europea e utilizzare invece questi soldi per far ripartire il ciclo economico, cioè prestarli alle imprese manifatturiere di servizio, eventualmente anche alle famiglie per i mutui, rendere sconveniente il deposito dei soldi presso la Banca Centrale Europea. Noi sappiamo che questa pratica fu molto diffusa nel periodo peggiore, dopo il crack di Lehman Brothers, inizio 2009, ma lì c'era un motivo oggettivo: le banche non si fidavano tra di loro, non si fidavano a prestarsi i soldi tra di loro, e quindi preferivano parcheggiare la liquidità, anche quella che arrivava dalla Banca Centrale Europea, nella stessa Banca Centrale Europea. Adesso però, con una situazione radicalmente diversa, in cui le pulizie di bilanci in molti casi sono state fatte, ma non solo, cioè la situazione è radicalmente diversa, è ovvio che questo prendere in prestito soldi dalla BCE per poi depositarli, o comunque depositare liquidità che si ha in cassa, non è più giustificato da una situazione emergenziale, mettiamola così. Poi vedremo, perché uno, piuttosto che prestare soldi, preferisce anche perdere lo 0,1%, questo può essere. Però diciamo non c'è più una convenienza di tipo nominale. Di questo parleremo, ripeto, nella seconda ora diffusamente, anche se vorrei partire dalle notizie in breve, visto che la reazione delle borse è stata immediata, sia sullo spread, anche perché Draghi non ha annunciato solo questo, è sicuramente la misura principale, ma ha annunciato anche un insieme di misure non convenzionali, per cui l'acquisto degli ABS e quindi i titoli garantiti a sostegno delle piccole e medie imprese. La Banca Centrale Europea preparerà un pacchetto di misure per rilanciare il credito, tra cui nuove aste di liquidità e misure preparatorie per acquistare lei stessa questi ABS. Ancora, la Banca Centrale Europea interromperà le operazioni settimanali con cui riassorbe la liquidità creata comprando titoli di Stato, pari a circa 165 miliardi di euro, e poi è pronta a un nuovo strumento, il TLTRO, sono prestiti a lungo termine alle banche, che però devono servire esclusivamente perché le banche utilizzino questi prestiti per le famiglie e per le imprese. Su questo sentiamo appunto un passaggio della conferenza stampa importantissima di oggi, perché è la prima volta storicamente che i tassi sono negativi sui depositi, nel passaggio appunto di Mario Draghi. The measures will contribute to a return of inflation rates. Le misure odierne contribuiranno al ritorno del tasso di inflazione a un livello vicino al 2%. Le attese circa l'inflazione nell'area euro nel medio-lungo termine continuano ad essere ancorate in linea con l'obiettivo di un tasso al di sotto, ma vicino al 2%. Guardando più avanti, il Consiglio è molto determinato nella salvaguardia di questo ancoraggio. I tassi di interesse rimarranno a livello attuale per un prolungato periodo di tempo alla luce dell'attuale scenario per l'inflazione. Se necessario, la BCE è pronta a decidere velocemente un ulteriore allentamento monetario. Il Consiglio è unanime nell'impegno di usare anche strumenti non convenzionali se dovesse diventare necessario affrontare i rischi di un periodo troppo prolungato di bassa inflazione. Così appunto Mario Draghi, ne parleremo nella seconda ora, ma dicevo che la reazione delle borse è stata immediata, delle borse e dei mercati. Subito dopo il taglio si è abbassato anche il nostro spread a 155 punti, anche l'euro era sceso sotto quota 1,36, a 1,35-75, adesso è leggermente risalito. Comunque a Francoforte la borsa ha per la prima volta sfondato il tetto dei 10.000 punti quando è iniziata la conferenza stampa di Mario Draghi. Fondo monetario applaude l'iniziativa, Angela Merkel dice la BCE è indipendente, non commenta le decisioni. Comunque poi parleremo delle varie reazioni anche del falco tedesco alle finanze, Schäuble, il quale dice i tassi bassi non sono la soluzione per il lungo periodo. Possiamo ribattergli, certo che non lo sono nel lungo periodo, come diceva Keynes, saremmo tutti morti, però nel breve preferiremo vivere e anche i tassi bassi servono, come insegnano gli Stati Uniti ma anche il Giappone. Lo so, non riesco a non polemizzare quotidianamente con Schäuble. La borsa italiana più 1,70% a 21.000, quasi 22.000 punti, Mediaset più 3%, Banco Popolare più 2,70, come Intesa San Paolo, oggi chiaramente bene tutte le banche, Popolare Emilia Romagna più 2,5, ancora Pop Milano più 1,70. Tra i titoli non bancari segnalo anche Atlantia più 2,30%, Fiat più 2, Enel più 1,90 come Exor, Eni più 1,60 come Campari, Finmeccanica più 1,40 come Enel Green Power e Terna. Ma l'1,40 lo guadagna anche UbiBanca, il 1,20 Generali e World Duty Free e Telecom Italia. Chi è negativa? UX di tanto anche, meno 6%, Salvatore Ferragamo meno 2,20, Autogrill meno 1%. Sentite una differenza di qualità dell'audio, certo stiamo trasmettendo, non l'ha ricordato forse il nostro GR, da Santa Margherita Ligure, domani si apre a due giorni dei giovani industriali, saremo in diretta appunto da Santa Margherita Ligure, gli interventi in mattinata domani riguarderanno il ministro Boschi, ma non solo, mentre sabato sarà la volta poi del numero uno di Unicredit Federico Ghizzoni, del ministro del lavoro Giuliano Poletti, del presidente Confindustria Squinzi, tra gli altri, cito diciamo gli interventi principali, e il tema riguarda proprio la capacità di rinnovare il modo di fare impresa verso un nuovo umanesimo industriale. E domani ne parleremo con lo stesso presidente dei giovani imprenditori italiani Marco Gai, neo eletto. Andiamo avanti con il resto delle notizie. Al di là della Banca Centrale Europea, il Premier Matteo Renzi è arrivato nel corso della conferenza stampa a Bruxelles del G7, ha detto abbiamo trattato il tema per noi rilevante e significativo della crescita, dell'importanza di investire sulla crescita economica, si è chiusa la fase di austerity, serve una pagina nuova e le nomine devono essere conseguenza di questa agenda. E sempre sulle nomine, a partire dal Presidente della Commissione Europea, ha detto Renzi, nessuno può dare diktat, nessun candidato ha ottenuto la maggioranza, è un passaggio importante, occorre trovare un punto di intesa complessivo, partirà una discussione da chi si è candidato, lo dico dal segretario a nome del primo partito che ha avuto più votanti. Uh, Volete sapere al 349-237-6666 se Draghi ha parlato anche dell'inflazione? Sì, certo che ne ha parlato. Draghi teme la deflazione e quindi i prezzi in calo. Dice che infatti l'inflazione resterà nel 2014 nell'area euro allo 0,7%. Quindi ben distante da quel 2%, intorno al 2% che è considerato ottimale dalla Banca Centrale Europea, salirà all'1,1% nel 2015 e all'1,4% nel 2016, il che vuol dire che, traduco, i consumi interni dell'area euro resteranno ancora deboli nel 2015 e nel 2014, anche se in ripresa, perché questa inflazione è dovuta all'assenza di consumi, al crollo o calo della domanda interna, e quindi i prezzi non crescono, praticamente restano fermi, crescono quelli energetici, forse poca roba. Insomma, la lenta ripresa dell'inflazione sta a significare una lenta ripresa dei consumi interni nell'area euro. E veniamo all'Italia. Mentre oggi il presidente Confindustria intervenuto a Giorgio Squinzi, chiaramente intervenuto all'ottavo forum economico italo-tedesco a Milano, ha detto le imprese da sole possono fare, fanno molto, ma da sole non sono nelle condizioni di risollevare il paese. Oggi la Confcommercio nel corso dell'assemblea annuale e nel corso della presentazione dei dati dell'ufficio studi ha stimato nel 2014 un PIL allo 0,5%, altro che lo 0,8% previsto dal governo Letta e l'1% previsto da Renzi, ma insomma questo era prima del dato sul primo trimestre. Consumi più 0,1, quindi fermi. La ripresa lontana, vi sarà un leggero recupero nel 2015, come già dicevamo ieri con il direttore del Centro Studi Confindustria. La cosa apparentemente anomala è che tutti i dati sulla fiducia dei consumatori sono in ripresa, sono ai massimi dal 2010 di consumatori e imprese, ma questo non si traduce ancora in comportamenti concreti misurabili dall'Istat. Lo sottolinea anche la Confcommercio, ci vorranno 11 anni per tornare ai livelli pre-crisi e al sud invece ci ne vorranno 12. Io dico spesso, attenzione, perché poi dobbiamo uscire da questa crisi, ma quando ci metti 11 anni a uscire da una crisi, a tornare al livello precedente, non puoi più parlare di crisi, parli di cambio strutturale, cioè è cambiato un mondo, nel senso che le crisi durano un tempo più breve e in un tempo relativamente breve si tornava ai livelli precedenti. Faccio ogni tanto l'esempio della crisi di coppia, insomma una coppia che è in crisi discute un mese, sei mesi, un anno, ma se è 11 anni che è in crisi non è più una coppia, probabilmente è separata, è un'altra cosa, quindi è cambiato il mondo nel frattempo. Poi certo ricorderemo quando i livelli di produttività della produzione industriale, del fatturato, del PIL pro capite, del potere d'acquisto torneranno a quelli del 2007, ma ormai saremo un'altra cosa, saranno passati almeno diciamo 11 anni, quindi saremo un altro paese, delle altre persone, delle altre imprese, quelle che ce l'avranno fatta. Pensate che la Confcommercio stima che nel 2015 il PIL pro capite sarà nel sud del paese di 12.160 euro, ossia un livello inferiore a livello nominale, cioè senza considerare l'inflazione, a quello di 20 anni fa, che era di 12.195 euro. Poi c'è qualcuno che mi chiede ancora perché parlo degli effetti di una guerra condotta senza, diciamo, armi e senza mezzi militari. Nei primi tre mesi dell'anno hanno chiuso 12.000 imprese del mondo del commercio, praticamente l'80% di queste chiusure riguarda i settori non alimentari e in particolare l'abbigliamento, che con l'automotive è uno dei settori più massacrati dalla crisi e dal cambio di atteggiamento dei consumatori, da quella che chi osserva i consumi chiama neosobrietà. Si amplia il divario economico e sociale tra nord e sud del paese e il presidente della Confcommercio Sangalli dice: l'Italia è malata di bassa crescita, non è fuori pericolo, e anche ad aprile abbiamo avuto una riduzione di 0,3 di punto dello 0,3 nei consumi. L'Italia dunque è ancora gravemente malata di bassa crescita, non è affatto fuori pericolo, I nostri dati sui consumi del mese di aprile indicano ancora una riduzione di 0,3 di punto. Sempre in aprile gli occupati hanno toccato un nuovo minimo storico. È stridente la contraddizione tra fiducia in risposta agli annunci del governo e comportamenti effettivi di famiglie e imprese, perché sulla fiducia prevale ancora l'oppressione fiscale. Tutto ciò obbliga il governo, il Parlamento, la politica ad agire con celerità, fermezza, efficacia. E poi l'intervento del presidente della Confcommercio Sangalli sul governo. La nuova stagione politica del presidente Renzi e del suo governo ha convinto molti che l'avvio delle riforme è veramente dietro l'angolo e soprattutto che non si può più tornare indietro. L'avvio delle riforme è veramente dietro l'angolo e soprattutto non si può tornare indietro. L'idea di aver imboccato la strada giusta ha fatto crescere la fiducia e la speranza sia nelle famiglie sia nelle imprese. Anche noi abbiamo intenzione e sentiamo il dovere di contribuire al processo riformatore. Il cantiere delle riforme è ampio e complesso e ha bisogno del contributo di tutti. Vogliamo immaginare una politica economica che si muova per sottrazione. Fino a ieri è stata sottrazione di risorse attraverso l'eccesso di imposizione fiscale. Oggi deve essere sottrazione di ostacoli all'attività delle imprese. Allora, vabbè, poi c'è chi dice finché esisteranno giornalisti come lei che ragionano come quelli che hanno costruito le basi per la crisi non ne usciremo mai. In effetti è vero, abbiamo una grossa responsabilità sulla creazione di questa crisi. Io ero convinto che si fosse generata per un eccesso di credito e assenza di rischio nel credito concesso. Errori, rischi inaccettabili presi dal mondo bancario e finanziario, e poi anche per dei problemi di gestione dell'area euro in questi ultimi 3-4 anni a trazione tedesca, infine anche per dei problemi nostri che per 20 anni abbiamo evitato di fare qualunque riforma della pubblica amministrazione, alla burocrazia, alla lotta all'evasione fiscale, tutte chiacchiere, e ci ritroviamo adesso con assieme alla Francia, forse col paese che ha fatto meno riforme strutturali al suo interno. Io pensavo fosse per questi motivi, ma evidentemente era per colpa dei giornalisti come me. Allora, chissà se è colpa anche nostra quello che è successo. Non vorrei far sentire però due passaggi del ministro Guidi sui temi toccati da Sangalli, perché oggi è intervenuta Federica Guidi, ministro dello sviluppo economico dell'Assemblea di Confcommercio, poi parliamo anche del MOSE e di altre amenità. Allora, il ministro Guidi sulla crescita dice ci sono tutte le condizioni perché la crescita si avveri, e poi annuncia anche uno sconto in bolletta di circa 70% per i commercianti, questo per quello che riguarda lo sconto in bolletta, una riduzione di circa 3.000 euro per gli alberghi, 400 per i ristoranti. Lo diceva il presidente Sangalli, ci attendono mesi cruciali per il futuro di tutto il nostro paese. Ed è vero, da troppo tempo si sentiti i politici di turno di intenti a tranquillizzare sull'imminente punto di svolta del ciclo economico, sulla ripresa ormai prossima, sulla luce in fondo al tunnel. Eppure io credo che questa non sia la solita cantilena, diciamo. Io credo realmente che ci siano tutte le condizioni per tornare a crescere. I segnali ci sono, favorevoli ci sono, e si stanno, io credo, anche intensificando. E imprenditori e consumatori comunque stanno ricominciando a guardare con un po' più di fiducia al futuro. E qualche primo, anche se ancora flebile e non sufficiente, segnale positivo inizia a interessare anche i consumi. Secondo le stime che stiamo condividendo proprio con la vostra associazione, quindi ci state aiutando a definire meglio questa misura, Immaginiamo che circa almeno il 70% dei commercianti possa beneficiare dello sconto in bolletta e ci siamo esercitati nel tentativo di fare qualche numero che vi anticipo e quindi stimiamo che ci possa essere una diminuzione degli oneri pari a circa 3.000 euro per un albergo, 400 euro per un ristorante, quasi 900 euro per un piccolo esercizio commerciale. Le stime che abbiamo fatto, poi magari le confronteremo meglio, dovrebbero essere circa 250 euro per un bar. Non sarà tutto quello che volevate, ma è qualcosa in più che abbiamo cercato di darvi per una giusta esigenza di equità. E poi sempre il ministro Guidi, sul tema che ricordavo poco fa, cioè che le colpe della nostra burocrazia, i tempi interminabili per avviare un'impresa, i controlli, il tempo dedicato a pagare il fisco che va pagato ma non in 100 con 172 giorni di lavoro per soddisfare quello che è poi il carico fiscale, la giustizia civile, i giudici del lavoro, la riforma, abbiamo di tutto in questo paese da riformare. Comunque la Guidi che dice di troppe tasse si muore, non è accettabile che su 365 giorni 172 se ne vadano per pagare le tasse. Partiamo da un presupposto: di troppe tasse si muore e non è accettabile che occorrano in media 172 giorni di lavoro su 365 per soddisfare le esigenze del fisco. Questo non è accettabile. E se poi guardiamo a una piccola impresa, i tempi si allungano ulteriormente, con differenze territoriali inaccettabili. In alcuni comuni si lavora per pagare imposte e tributi fino a settembre praticamente. E dal 2011 a oggi il complessivo del total tax rate per le piccole imprese è aumentato di 4 punti percentuali, considerando la somma fra imposte nazionali, regionali e comunali. Dunque, è chiaro che nessuno si sogna nemmeno di poter non mantenere in ordine i conti pubblici. Questo è fondamentale. Però non è nemmeno anche possibile, non è possibile scaricare i costi della crisi sempre sulle stesse categorie, imponendo sacrifici che non sono semplicemente più sostenibili. Il sogno di oggi è facile, non è solo non dover lavorare 172 giorni, quello è un sogno, un'utopia forse in questo periodo, anzi è un incubo in questo momento, lavorare 172 giorni per pagare le tasse, ma il sogno in realtà è un altro, è anche qui forse veramente un'utopia, è non dover più commentare, insomma, dalla Cassa del Risparmio di Genova alla Banca Marche, l'Expo. Sto dimenticando qualcosa, forse sì. Tutti i casi che raccontiamo ogni giorno, che riguarderanno centinaia, poche decine di migliaia di euro, qualche centinaia di migliaia di euro, però poi alla fine fanno massa. E adesso ci mancava anche il MOSE, di cui, come dicevamo ieri, è anni che ahimè si sente parlare, però sai, le chiacchiere stanno a zero, come dicono a Roma, invece gli avvisi di garanzia, gli arresti domiciliari o la traduzione in carcere, quella non sta a zero. Perché da più parti si diceva attenzione che lì c'è una cupola, una cricca del malaffare che sovraffattura la materia prima per il MOSE, i 5 miliardi che costa in realtà sono lievitati grazie. Qui siamo arrivati a una nuova fase, Tangentopoli 2, Tangentopoli 3, la vendetta, addirittura lo stipendio proprio, perché l'accusa dei PM, come ricordavamo ieri, è che a Galan venissero dati 1 milione di euro l'anno, poi il magistrato della Corte dei Conti 400-500 mila euro, i magistrati alle acque che sono magistrati fondamentali a Venezia, pure loro corrotti, alcuni ufficiali della Guardia di Finanza, qui non è un problema solo di imprenditore, diciamo ditta appaltante, fornitore, sovrafatturazione, tanto paga pantalone perché i soldi sono nostri. Allora, sospeso il sindaco Orsoni dalla carica di sindaco, l'ha deciso la prefettura di Venezia, è un atto dovuto in base alla legge Severino, è un atto dovuto in generale secondo me. Allora, ancora, questo perché la misura è coercitiva, non perché ci siano avvisi di garanzia, perché Orsoni è domiciliari. voglio specificarlo. Poi l'assessore Veneto Chisso si dimette di Forza Italia, Renato Chisso, Orsoni del PD, di Forza Italia, Renato Chisso è tra i 35 arrestati, si dimette da amministratore regionale di Forza Italia. Matteo Renzi, oggi il premier a Bruxelles, amarezza enorme, è una ferita, e dice attenzione, il tema della corruzione è un tema altissimo nel paese. È un'amarezza profonda, perché ti trovi di fronte a chi tradisce la fiducia più grande, che è quella, la fiducia dei cittadini nel buon operato e nella correttezza personale. Dunque si tratta di una, per chi fa politica e per chi la fa in modo serio, è veramente tutte le volte un colpo e una ferita. Il problema della corruzione non sono le regole che ci sono le regole che non si rispettano. Cioè non si tratta semplicemente tutte le volte di inventarsi delle nuove regole, si tratta di rispettare le regole che ci sono. Ma potrebbero esserci delle regole? Io personalmente un politico che viene indagato per corruzione lo indagherei per alto tradimento, se dovesse dipendere da me. Perché uno che prende delle tangenti tradisce il mandato, l'onore sul quale aveva giurato. Devo dire che su questo, poi ogni volta che uno dà ragione al Presidente del Consiglio, si chiami Berlusconi, si chiami Monti, Letta o Renzi, ecco vedi che sei renziano, ma devo dire che è vero, è inutile continuare a dire mancano le regole, ma se uno è ladro gli puoi mettere le regole che vuoi, diciamo che manca un'altra classe di genere, le regole servono, se ci mancherebbe, le pene servono, a suo tempo fummo nettamente contrari alla depenalizzazione del falso in bilancio, cioè le leggi servono, però non c'è legge che tenga quando uno è ladro e quando uno vuol rubare. Cosa fai? Metti una telecamera, un microchip nella testa? Io gli metterei qualcos'altro, ma non nella testa. E dice infatti Renzi, il problema sono i ladri, non le regole. La sintesi è che sicuramente noi interverremo nelle prossime ore, nei prossimi giorni, sui temi degli appalti pubblici, dell'Autorità Nazionale per la Anticorruzione, degli interventi specifici, però il punto centrale vorrei che fosse chiaro. Non possiamo tutte le volte che c'è una vicenda di corruzione dire che il problema sono le regole. Il problema sono i ladri, non le regole. Sì, c'è chi dice iniziamo col fare due mandati, va bene, non penso che va benissimo, cioè due mandati basta come alla regione o piuttosto che come consigliere regionale, comunale, come parlamentare. Temo che se uno vuole rubare riesca a rubare anche in due mandati, se fosse vera l'accusa Galano, 1 milione all'anno, fatemi un calcolo di quanto guadagnava con due mandati, comunque, cioè il problema è cambiare la classe dirigente e soprattutto a questo punto mettere delle sanzioni vere, perché ogni volta che si accusava la politica nel passato si diceva questo è un attacco al partito, ma ce lo ricordiamo, no? Vabbè, adesso pubblicità meteo, poi altre dichiarazioni sul MOSE da parte del ministro Orlando, ministro della giustizia, del governatore del Veneto Zaia, e poi anche una parte, ciò che resta dell'Italia industriale. Ieri abbiamo iniziato un ragionamento con il professor Barba Navaletti. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Nella seconda ora invece Mario Draghi e la mossa non convenzionale. Focus Economia. Minuti, non vi dico i messaggi che stanno arrivando sul MOSE. No, ecco, una nota che non ho fatto ieri, però vorrei farla oggi. A tutti i serenissimi, visto che chi vi parla, ripeto, è metà veneziana, tutti i serenissimi che continuavano a evocare e invocare l'indipendenza del Veneto, perché il Veneto è diverso, perché come la mettiamo adesso? L'indipendenza per tenerci i ladri in casa? I ladri autoctoni, l'importante è che abbiano l'accento veneto i ladri? Diciamola tutta, cioè questo è un paese che va riformato e va poi che ci siano le mafie al sud e che pesino in maniera endemica, purtroppo sono arrivate anche al nord, è verissimo che ci sia una maggiore efficienza al nord, è verissimo che gli amministratori locali del nord e del centro nord siano spesso, non sempre, anzi, più accorti, più attenti al bene comune del nostro mezzogiorno, lo vediamo da molti dati, però attenzione a pensare che poi no, basti l'etnia o la nascita, anzi etnia, la nascita e l'accento a fare di uno un ladro oppure un santo. Allora, sulla vicenda, il ministro della giustizia Orlando: sono intristito ma non stupito. Intristito ma non stupito per due ragioni. Noi riusciamo a farcela se traiamo un po' di lezioni. Uno, basta con le procedure eccezionali, basta con i percorsi emergenziali. Dove non c'è concorrenza e non c'è mercato, è più facile che si crei l'opacità. Due, abbiamo delle leggi, facciamole funzionare. C'è un piano di prevenzione per la corruzione della pubblica amministrazione, ahimè, soltanto poche settimane fa è stato nominato il presidente dell'agenzia e quello è lo strumento con il quale si verifica poi se questi piani sono stati fatti, altrimenti restano sulla carta. E poi il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone, ha detto oggi, attenzione, la vicenda del MOSE è più grave dell'Expo. Ora, a me la classifica interessa poco, non vorrei avere né una né l'altra. Serve una svolta, non basta cambiare le regole, occorre discontinuità politica. Sì. Mentre il presidente del Veneto, Luca Zaia, anche a chi chiedeva le dimissioni dal PD, io dico in questo caso ognuno guardi in casa sua, Orsoni è eletto col PD, però vabbè, è intervenuto questa mattina, dicevo, Luca Zaia da Alessandro Milan, 24 mattino, e così ha risposto a chi chiedeva le sue dimissioni. Innanzitutto queste sono indagini, sono durate 5 anni, hanno spiegamento di forza e pauroso, e a riuscire a sapere che negli anni 90 c'erano degli accordi per cui c'era qualcuno che prendeva soldi, io negli anni 90 andavo a scuola. Lascia l'amaro in bocca a vedere un partito, per fortuna i PD non sono tutti così, che ha avuto arrestato il suo sindaco di Venezia, quindi gli arresti domiciliari, l'ex capogruppo del PD in consiglio regionale, anche lui con gli arresti, quindi oggetto di provvedimento restrittivo, e invece di parlare del loro problema chiedono le dimissioni dell'unica persona peraltro che si è comportata con correttezza, legalità, ed è stata certificata questa legalità dai stessi magistrati. Ci vuole discontinuità, penso di rappresentarla visto considerato che non c'entro niente questa vicenda, ma dico ancora di più, se fosse vero per la proprietà transitiva che mi devo dimettere, mi chiedo come mai non si chiedono le dimissioni magari anche al Premier, al Presidente del Consiglio, che altri, visto considerato che assieme al mio assessore e i dirigenti sono stati arrestati dirigenti di caratura nazionale, persone pagate e dipendenti dello Stato, a questo punto ne viene fuori uno scenario che dove tutti sono responsabili, invece non è così, ci sono gli onesti e i disonesti. Penso che il conto è un conto amaro che paga la nostra comunità e i veneti in questo momento stanno vivendo una pagina buia della storia. Ben venga che il mio partito non sia citato, minimamente citato. Io ho evitato sempre di parlare del mio predecessore. Se questo fosse vero, la vicenda è assolutamente inquietante. Adesso la chiudiamo qui per ora con il MOSE. Ripeto, ormai è giusto che ognuno guardi in casa sua, non deve fare della corruzione uno scontro politico. Andiamo a cercare di capire come mai lì dentro c'è una cupola vera e propria su questi lavori. Poi molti dicono non facciamo più le grandi opere, sarebbe intanto finiamo quelle che ci sono, il MOSE l'85%, l'Expo bisogna farlo perché la figura diciamo non di Nutella a livello internazionale sarebbe enorme, per cui dopodiché traffico. Focus Economia. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Arriviamo anche alla borsa, tutta la seconda parte dedicata a Mario Draghi, alle reazioni sullo spread, sui mercati. Vorrei però concludere, visto che ieri proprio per via dello scandalo scoppiato in Laguna abbiamo dovuto ridurre e interrompere il professor Giorgio Barba Navaretti, che insegna economia politica alla Statale di Milano, autore del libro sulla Fiat, Made in Torino, Fiat Chrysler Automobiles e il futuro dell'industria, ma che ieri era anche, diciamo, membro e partecipante a un convegno importante sull'acciaio. Volevo concludere il ragionamento con lei. Di nuovo buonasera, professore. Buonasera di nuovo a voi. Allora, lei diceva che, insomma, il marchionne che abbiamo fatto ascoltare ieri, che dice, insomma, a me serve la cassa fatta con la Chrysler per mantenere la Fiat e quindi poi esportare i modelli non comunque in Europa, che è un mercato saturo, fermo, ma all'estero, lei soprattutto l'Alfa, abbiamo fatto sentire quel passaggio sull'Alfa Romeo, in cui Marchionne diceva per ogni, fra 2 o 3 anni, per ogni modello di BMW ci sarà un modello equivalente di Alfa, l'aveva convinta. Eravamo rimasti però sul fatto che i modelli per ora non si vedono e le immatricolazioni Fiat di 2 giorni fa, il mercato ha fatto meno 3,8, Fiat ha fatto meno 11%. Come si conciliano le due cose? Beh, si conciliano col fatto che effettivamente, come diceva lei, i modelli per l'Europa non ci sono. L'unico, mi pare, modello che è stato introdotto recentemente è la 500 Large, ma non ci sono stati messi dei nuovi modelli. E comunque, diciamo, l'idea che l'America debba sussidiare l'Europa, questo ha funzionato e può funzionare ancora un po', ha funzionato in questa fase. È chiaro che diciamo, i siti produttivi europei comunque beneficeranno molto da una ripresa della domanda in Europa, che penso che prima o poi ci sarà, perché non è possibile che rimaniamo a questi livelli, siamo livelli veramente troppo bassi in questo momento. E come dicevamo prima, l'idea comunque è quella di produrre in Italia, non soltanto in Europa, anche se appunto la domanda europea dovesse ripartire, ma per riesportare verso gli Stati Uniti. Quindi non è tanto che l'America sussidierà l'Europa quando le cose andranno bene, ma che l'Europa deve diventare una piattaforma competitiva anche per l'America. Questo effettivamente è un ragionamento un po' diverso, però ha ragione lei, i modelli per ora non ci sono ancora, sembra che li stiano per produrre, insomma lì c'è un piano che li prevede, ma vedremo che cosa verrà fuori. Ecco, ma per chiudere su questo, fermo restando la visione che Marchionne ha illustrato, non è che sia arrivata tardi, cioè Marchionne aveva sempre detto non faccio i modelli perché il mercato è fermo, quando il mercato ripartirà ci saranno i modelli. Il mercato un po' è ripartito, questi, adesso, 2 giorni fa in Italia ha fatto un nuovo segno meno, però era da 4 mesi che faceva segno più, in Europa un po' è ripartito. Non è che sia arrivata tardi la Fiat su questo? Ma diciamo che è stato fatto un azzardo, nel senso che bisogna vedere come andrà, nel senso che chi ha fatto i nuovi modelli e li ha prodotti, come appunto ad esempio le case francesi, in una fase Volkswagen di ciclo rallentato, effettivamente ha dei problemi. Credo che anche Marchionne ricordasse a Trento appunto che anche nel caso di Volkswagen, in realtà Volkswagen i suoi profitti non li fa con i modelli generalisti, cioè le Golf, le Volkswagen, ma li fa poi con l'Audi e con quello che vende in Cina, eccetera. Quindi le case francesi, ricordiamoci il caso della Peugeot, che ha tirato fuori degli ottimi nuovi modelli, ma in effetti oggi non ha portato i libri in tribunale perché è intervenuto lo Stato francese. Allora, diciamo, lui ha fatto una strategia di attesa in cui ha deciso di non investire in nuovi modelli, e ovviamente il lato negativo di questa strategia è che nel momento in cui riparte il mercato rischia di essere a corto di modelli, quindi vedremo come questo gioco pagherà. Ecco, sicuramente per ora ha permesso di non assorbire delle risorse che sarebbero sicuramente state sprecate e che oggi avrebbero reso la Fiat molto più debole di quella che è. Allora, professor Barba Navaretti, a me piace ospitarla perché lei conosce bene, diciamo, i settori industriali di questo paese, le politiche industriali, come si sarebbero chiamate una volta, adesso forse torneranno in voga. E quindi le chiedo, al di là del settore automotive, abbiamo capito che, insomma, sì, la ripresa tornerà anche in Europa, ma con i dati che abbiamo visto oggi ci metteremo anni, non sarà questo il mercato per le automobili interessante, è la Cina, è l'Asia, è nel suo complesso, è il Brasile, è l'India, vabbè. Lei però ieri ha partecipato, come ricordavo, anche all'iniziativa Industria Acciaio 2030, organizzata da Siderweb nel centro dell'acciaio italiano, che è appunto Brescia e la sua provincia, che terminerà in occasione della 6ª edizione di Made in Steel. C'è prospettiva, visto che già accennavamo ieri a questo, per un altro settore contiguo, che è quello dell'acciaio? Abbiamo visto cosa è successo all'Ilva, i dubbi sull'Ilva, ma anche la drammatica crisi di Piombino, che trascina con sé la Lucchini, anche tutti i fornitori, non è solo la Lucchini in sé. Prego. Ma mi sembra che in questo settore ci sia un'evoluzione. Io non sono un esperto specifico dell'acciaio, ma mi sembra che come in molti altri settori ci sia anche qui una graduale transizione verso produzioni a più alto valore aggiunto, e mi pare che ci sia anche una modifica delle tecnologie, cioè si passi dagli altoforni, che sono delle tecnologie che richiedono investimenti colossali e molto complesse eccetera, a delle tecnologie come i forni elettrici, che dovrebbero permettere di costruire degli impianti più flessibili con costi più bassi e che in qualche modo permettono di stare con più agio sul mercato. Qui, come però in tutti gli altri settori, come nell'automobile eccetera, la strategia per l'Italia è appunto una strategia che va verso una crescita del valore aggiunto, e come lei ha ricordato molte volte nelle sue trasmissioni, questo ovviamente a volte va a scapito dell'occupazione, no? Perché poi col valore aggiunto non si fa la produzione di massa. Però certamente la scommessa per l'Italia è quella, in ogni modo, di andare anche in questa direzione. Anche lì di spostarsi sulla parte a maggior valore aggiunto, come dicevamo ieri, anche su altri settori industriali. Grazie a Giorgio. Grazie a voi. Barbara Navaretti, giustamente l'ascoltatore dice: perché non ci facciamo mancare, perché ci facciamo mancare il ponte sullo stretto? Ecco, appunto, perché ce lo facciamo mancare. GR24 e poi Mario Draghi, le misure non convenzionali. Focus Economia. E 9 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia, in diretta da Santa Margherita Ligure oggi e domani, in occasione anche del convegno dei giovani industriali sul tema del nuovo umanesimo industriale. Però adesso parliamo, come annunciato, di Banca Centrale Europea, partendo intanto dalla reazione della borsa. Allora, chiaramente dopo l'annuncio della riduzione dei tassi di interesse dallo 0,25 allo 0,15%, ma soprattutto anche dei tassi negativi e di una politica ancora più accomodante nei confronti delle banche, adesso vi arriveremo, la reazione è stata univoca. Francoforte ha sfondato la quota 10.000 punti, Milano ha chiuso più 1,50% a 21.950 punti, Mediobanca più 4%, Unicredit più 2,90%, Intesa San Paolo più 2,40%, Banco Popolare più 2%, Popolare Emilia Romagna più 2%. Ancora sulle banche segnalo rialzi ma un po' più contenuti per la Pop Milano più 1,30%, Generali più 1,15%, Ubibanca più 1% e Unipolsai più 1%. Tra i non bancari, Mediaset più 2,70%, Exor più 1,90%, visto che parlavamo del gruppo Fiat, Fiat più 1,90% anch'essa. Tra l'altro, oggi in controtendenza tutto il comparto moda, in particolare da un lato Ferragamo meno 2%, ma anche Tod's meno 0,20%, Moncler meno 0,45%, questo dopo i conti di Prada. Per la prima volta della quotazione, infatti, il primo trimestre è risultato in calo. Quanto agli altri titoli, dicevamo di Mediaset più 2,70%, è arrivata a guadagnare oltre il 3%, Telefonica con una mossa sorpresa ha messo sul piatto 350 milioni in contanti per comprare il 22% di Digital Plus, la pay TV spagnola, attualmente la quota attualmente detenuta da Mediaset. Non è detto che Mediaset accetti, anche se sta cercando compratori, ma la borsa ci scommette. L'altro titolo a andare male oggi invece è molto male, Hughes meno 6%. Che è successo? La concorrente britannica Asos ha rivisto al ribasso tutte le stime per fine d'anno, anche per quello che riguarda il primo trimestre di quest'anno, e quindi Asos a Londra è arrivata a perdere oltre il 36%, oltre il 30% in generale, e chiaramente c'è un impatto anche sul titolo Yux, appunto meno 6,13%, migliori e peggiori in assoluto, Grandi Viaggi più 12,30%, Telecom Italia sul risparmio più 8,40%, BE più 7,94%, Sole 24 Ore più 4,60%, fronte opposto, Yux appunto meno 6,13%, Irce meno 5,50%, RCS Media Group sul risparmio meno 5,25%, Ceramiche Ricchetti meno 4,80%. Ma dicevamo, insomma, la notizia sui mercati, la notizia più forte del giorno riguarda la Banca Centrale Europea. Allora, che cosa ha deciso? Ha deciso di ridurre dello 0,25 allo 0,15% il costo del denaro, di portare a negativo, meno 0,1%, il tasso sui depositi overnight. Come spiegavamo prima, molte banche continuano, perché era accettabile e comprensibile tra il 2008 e il 2009, quando tra di loro non si fidavano a prestarsi i soldi, preferivano depositarli la notte nella Banca Centrale Europea e riprenderli di giorno, il tasso overnight. Ecco, questo tasso continua a essere, questo deposito continua a essere utilizzato. Mario Draghi, la BCE, per scoraggiare il deposito notturno e incoraggiare o spingere invece a prestare questi soldi a famiglie e soprattutto imprese, hanno deciso che questo tasso sarà negativo. Cioè, tu puoi continuare a depositare i soldi la sera e riprendere la mattina, ma ci perdi qualcosa, meno 0,1%. Le decisioni prese in questo passaggio, anche perché la Banca Centrale Europea ha anche annunciato un nuovo strumento, TLTRO, sono prestiti a lungo termine alle banche, però mirati e vincolati al fatto che le banche utilizzino questi prestiti per rilanciare il credito a famiglie e imprese. In pursuing our price stability mandate today, we decided. Nel perseguire il nostro mandato di stabilità dei prezzi, oggi abbiamo deciso una combinazione di misure per fornire un livello ulteriormente accomodante di politica monetaria e per sostenere i prestiti all'economia reale. Questo pacchetto di misure include un'ulteriore riduzione dei tassi di interesse. I TLTRO, ossia prestiti a lungo termine alle banche mirati per rilanciare il credito che forniscono a famiglie e imprese, nuove aste di liquidità a lunghissimo termine, e misure preparatorie per acquistare gli ABS, cioè titoli garantiti a sostegno delle PMI. Inoltre, abbiamo deciso di interrompere le operazioni settimanali con cui si riassorbe la liquidità creata comprando titoli di Stato durante la crisi del debito. Le decisioni sono basate sulle nostre analisi economiche, tenendo conto delle ultime previsioni macroeconomiche e i segnali che arrivano dalle analisi monetarie. Taking into account the latest macroeconomic projections by the Eurosystem staff and the signals coming from the monetary analysis. Ancora Mario Draghi, siamo pronti, se necessario, a un ulteriore allentamento monetario. Ora io non capisco, dello 0,15 allo 0, per carità, così capisco io, però sentiamo questo passaggio. The measures will contribute to a return of inflation rates. Le misure odierne contribuiranno al ritorno del tasso di inflazione a un livello vicino al 2%. Le attese circa l'inflazione nell'area euro nel medio-lungo termine continuano ad essere ancorate in linea con l'obiettivo di un tasso al di sotto ma vicino al 2%. Guardando più avanti, il Consiglio è molto determinato nella salvaguardia di questo ancoraggio. I tassi di interesse rimarranno a livello attuale per un prolungato periodo di tempo alla luce dell'attuale scenario per l'inflazione. Se necessario, la BCE è pronta a decidere velocemente un ulteriore allentamento monetario. Il Consiglio è unanime nell'impegno di usare anche strumenti non convenzionali se dovesse diventare necessario affrontare i rischi di un periodo troppo prolungato di bassa inflazione. Ed è questo il motivo così ufficiale. L'inflazione è troppo bassa, la Banca Centrale Europea la stima nell'area euro quest'anno allo 0,7%, quindi ben distante dal 2% ritenuto ottimale, ma anche l'anno prossimo resterà all'1,1% e anche nel 2016 sarà all'1,4%. Perché? Perché in Europa, nell'area euro, i consumi, tranne che in Germania e in qualche altro paese, sono allo zero, sono anche in negativo, sono fermi, e la Banca Centrale Europea spera in questo modo che da un lato si conceda denaro con maggior facilità, con tassi più bassi e anche con le iniezioni che adesso racconteremo. Alessandro Merli, corrispondente sulle 24 ore a Francoforte, buonasera. Buonasera a voi. Alessandro, fermo restando che poi domani su Sole 24 Ore vi sarà un'ampia pagina su questo, ampie pagine, approfondimenti proprio su tutti gli effetti della Banca Centrale Europea. Ti chiedo ancora un minuto di pazienza, le informazioni sul traffico e poi cerchiamo di capire cosa siano questi maxi prestiti alle banche e anche la copertura sugli ABS. Focus Economia. Diciotto minuti, ultima parte di Focus Economia. Dunque, Alessandro Merli, abbiamo ascoltato i due passaggi probabilmente principali di Mario Draghi. Iniziamo dai vari aspetti, oltre che il tasso overnight, penso di averlo già spiegato, perché si cerca di scoraggiare le banche a depositare soldi lì. Invece mi sembra ancora più una novità i prestiti della Banca Centrale Europea a lungo termine, una prima tranche da 400 miliardi? Sì, la Banca Centrale Europea sta cercando di far ripartire il credito, cioè ha individuato due problemi con l'economia dell'Eurozona. Uno è l'euro troppo forte e a questo risponde portando i tassi in territorio negativo per quello che riguarda i depositi. E l'altro è la mancanza di credito, soprattutto in certe regioni, comprese Italia e Spagna, e soprattutto in certi settori dell'economia come piccole e medie imprese. Allora cosa fa la Banca Centrale Europea? Siccome poi alla fine il finanziamento alle imprese in Europa avviene in larghissima misura attraverso le banche, dà nuova liquidità alle banche, ma per evitare che le banche facciano come hanno fatto a cavallo del 2011-2012, cioè usino questa liquidità per comprare titoli di Stato, cosa che va benissimo perché ha rimesso a posto i bilanci delle banche, però a questo punto la Banca Centrale Europea vuole che questi soldi affluiscano all'economia reale, allora dice facciamo un'altra LTRO, un'altra fornitura di liquidità in una prima fase per 400 miliardi di euro, ma deve essere condizionata, cioè noi vi daremo i soldi a queste condizioni molto favorevoli a patto che voi possiate dimostrare facendo dei rapporti periodici che questi soldi poi vanno o alle imprese o alle famiglie, ma attenzione, non alle famiglie perché si comprino delle case creando una bolla immobiliare come è già successo in Spagna, in Irlanda e in altri posti, ma perché eventualmente facciano degli altri tipi di acquisti o di investimenti. Quindi questo è un po' l'idea dietro questa targeted LTRO, quindi questa fornitura di liquidità mirata che ha architettato oggi la Banca Centrale Europea. Da che capisco due cose. A, che ne dica il mondo bancario, Mario Draghi ritiene che le banche non stiano prestando sufficienti soldi all'economia nonostante le varie operazioni della Banca Centrale Europea. Poi uno può pensarla come vuole, ma siccome ogni volta che intervistiamo i banchieri ci dicono no, ma noi stiamo facendo, o chi rappresenta l'ABI, noi stiamo facendo il massimo di impiego. Vabbè, Mario Draghi, non noi, non è d'accordo, ritiene evidentemente che servono altri strumenti. Da un lato il bastone, chiamiamolo così, i tassi overnight negativi, per cui ti rendo sconveniente depositare, troppo comodo depositare i soldi da me e non usarli per far ripartire l'economia reale. Dall'altro ti do anche la carota e ti do la possibilità, come tu ricordavi, con una prima tranche da 400 miliardi di euro che arriverà a breve, se ho ben capito. Le due operazioni sono a settembre e dicembre di quest'anno. Quindi, settembre e dicembre di quest'anno. E dicembre di quest'anno, poi nel periodo successivo, ogni tre mesi le banche potranno fare richiesta di ulteriore liquidità, sempre con l'impegno di darla all'economia reale. Quindi è possibile, diciamo il tetto sono questi 400 miliardi di euro, è possibile che le banche ne richiedano di meno, però c'è anche questa possibilità che successivamente accedano di nuovo a questo sportello della Banca Centrale Europea ogni tre mesi per poi dare prestiti all'economia reale. C'è anche una penalità inserita nell'annuncio di oggi della Banca Centrale Europea, cioè se alla fine poi si vedrà che questi soldi in effetti non sono stati prestati all'economia reale, quindi a imprese e famiglie, le banche dovranno restituirli alla BCE a un tasso più punitivo di quello a cui sono state stati prestati. Questi 400 miliardi infatti scadranno nel 2018, avranno quindi durata di 4 anni, dovranno prestare circa il 7%, le banche dovranno prestare circa il 7% del totale dei loro impieghi al settore privato, a un settore privato non finanziario, esclusi i mutui per la casa. E appunto, come tu ricordavi, c'è anche la penale, se tu invece, se si scopre che tu questi soldi li hai usati per comprare titoli di Stato, per fare per comprare prodotti strutturati, per comprare prodotti finanziari, magari erogare mutui, vieni punito, li devi ridare con, tra virgolette, un tasso più alto che assomiglia a una multa. C'è un'altra cosa, c'è una cosa che però non ho capito, cioè il bastone e la carota mi sembra molto chiaro, Alessandro, non ho capito un passaggio quando Mario Draghi dice: attenzione, non abbiamo ancora esaurito le misure, però ammette che da un punto di vista pratico la BCE ha raggiunto il limite inferiore sui tassi di interesse, anche se può levare un altro 0,15, ma non è con quello che ci cambi la vita. Allora, quando lui dice non abbiamo ancora esaurito le misure, a che cosa si riferisce? Beh, si riferisce in pratica a quel quantitative easing tanto invocato, e che la BCE per il momento... lo stampaggio di moneta. Tavolo, ma non esatto, quindi l'acquisto di titoli pubblici o privati che per il momento la BCE non ha ancora varato, diciamo è l'ultima grande arma che si tiene in serbo. Dice: oggi variamo questo pacchetto di misure, noi siamo convinti che basterà per riportare il tasso di inflazione su livelli più consoni a quelli che noi riteniamo, cioè più vicini al 2%. Non dimentichiamo che l'ultimo dato dell'inflazione è allo 0,5%, quindi un quarto circa del livello a cui dovrebbe essere secondo gli obiettivi della BCE. Draghi dice: noi siamo convinti che quello che abbiamo annunciato oggi basterà. Per la verità non tutti sui mercati sono convinti che basterà. Però, dice Draghi, non abbiamo ancora finito, cioè sui tassi obiettivamente ormai siamo arrivati allo zero, non c'è più moltissimo che potremo fare. Però se ci sarà bisogno faremo un ulteriore stimolo monetario, e questo di fatto vorrà dire probabilmente acquistare titoli pubblici o privati, che vorrà dire appunto immettere ulteriore stimolo monetario nel sistema, in modo di cercare di sperare di sbloccare l'economia e anche far risalire l'inflazione. Sì, tra le misure oggi annunciate c'è tra l'altro anche le misure preparatorie per acquistare gli EBS, cioè i titoli garantiti a sostegno delle piccole e medie imprese. Però, capito, tu dici, Mario Draghi ha detto il bastone è se continuate a depositare i soldi da me vi do i tassi negativi, quindi ci perdete adesso. La carota è: vediamo 400 miliardi di euro a patto che voi dimostriate, se no vi punisco anche su questo, che li prestate a imprese di servizi manifatturiere o alle famiglie, ma non per i mutui. E poi mi tengo come riserva lo stampaggio di euro, come ha fatto la Banca Centrale Americana per anni. Tuttora la Fed sta stampando circa 70 miliardi di dollari, 65 forse erano scesi, 65 miliardi di dollari al mese. Un'ultima domanda, Alessandro Merli, le posizioni all'interno della BCE, perché abbiamo visto la Merkel dire la BCE è indipendente, non faccio commenti, però Schäuble, il suo ministro delle finanze, ha detto: attenzione, i tassi bassi non sono una soluzione per il lungo periodo, e poi ha continuato: non si vedono segnali di deflazione, vabbè. E poi abbiamo visto invece Hollande dire molto bene Mario Draghi. C'è stata tensione nel board o la decisione è stata unanime? No, la decisione è stata assolutamente unanime su tutti i punti, e del resto era un consenso che stava emergendo all'interno della BCE da diverso tempo. Diciamo che la cautela degli ultimi mesi era stata ispirata, credo, più alla volontà di aspettare queste nuove proiezioni sull'inflazione, sulla crescita, che essendo state riviste nuovamente al ribasso a questo punto rendevano inevitabile l'azione. Però diciamo che il consenso stava emergendo ormai da settimane se non da mesi. Mario Draghi ha detto esplicitamente, anche non richiesto, dice: ma come, mi chiedete sempre se la decisione è stata unanime, stavolta non me lo chiedete ma ve lo dico io, la decisione è stata unanime, anzi ringrazio i colleghi del Consiglio perché tutti sono espressi a favore di questo pacchetto di misure importante, eccetera eccetera. Adesso poi se basterà o meno, questo resta da vedere. Sul fatto che poi a lunghissimo termine, a un certo punto i tassi debbano risalire, Draghi dice: beh, se l'economia poi riprenderà a crescere, a un certo punto risaleranno i tassi. Però credo che oggi abbia voluto più garanzie possibile che i tassi resteranno bassi ancora per un periodo molto lungo. mi sembra che i problemi siano altri, non certo quando far risalire i tassi di interesse. Grazie al corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte, Alessandro Melli. Come ricordavo, domani Sole 24 Ore esce proprio con delle pagine speciali dedicate agli effetti poi sulla finanza, ma anche sulla vita di tutti noi, e di queste misure. Focus Economia termina qui. Un ringraziamento da Sebastiano Berisoni a Michele Previato e Davide Cioccia per l'assistenza tecnica, Mauro Del Corno per l'assistenza in redazione qui a Santa Margherita Ligure, Barbara Bianchi invece è da Milano. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.